suonate le trombe in Sion, date l'allarme sul mio santo monte, tremino tutti gli abitanti della terra. È venuto il giorno del Signore, è vicino, giorno di tenebre e di oscurità, giorno di nube e di caligine. Come l'aurora che si stende sui monti, un popolo numeroso e forte. Come lui non ve ne fu mai fin dai tempi remoti, e dopo lui non ve ne sarà per gli anni di tutte le generazioni. Davanti a lui il fuoco divora, e dietro a lui la fiamma consuma. Come il giardino dell'Eden, prima di lui è la terra, e dopo di lui un deserto desolato, da lui non c'è scampo. Il suo aspetto è l'aspetto di cavalli, come cavalieri così corrono essi, come un fragore di carri che balzano sulle cime dei monti, come il crepitio d'una fiamma di fuoco che divora la stoppia, come un popolo forte disposto per la battaglia. Davanti a lui si contorcono i popoli, tutte le facce si scolorano, come prodi si slanciano, come guerrieri assaltano il muro, ognuno va per la sua strada senza sviarsi dal loro cammino, nessuno taccheggia il suo vicino, ciascuno avanza per la sua via, si gettano in mezzo alle armi, non lasciano spazi, penetrano nella città, corrono sopra gli spalti, entrano nelle case, entrano dalle finestre come ladri. Davanti a lui geme la terra e tremano i cieli. Il sole e la luna si oscurano, le stelle celano il loro splendore. Il Signore fa sentire la sua voce alla testa del suo esercito. Sì, sterminato è il suo accampamento. Sì, forte è l'esecutore della sua parola. Sì, grande è il giorno del Signore e pieno di spavento. Chi può sostenerlo? Anche ora, ecco l'oracolo del Signore. Tornate a me con tutto il cuore, con digiuno, con pianto e lamento. Spezzate il vostro cuore, non le vostre vesti, e tornate al Signore, vostro Dio. Egli è benigno e pio, lento alla collera e ricco in bontà, e si ricrede del male. Chissà, potrebbe ricredersi e lasciarsi dietro la benedizione, offerta e libagione per il Signore vostro Dio. Suonate le trombe in Sion, prescrivete un digiuno rituale, convocate una adunanza, radunate il popolo, celebrate una riunione sacra. Radunate gli anziani, radunate i fanciulli e quelli che succhiano il seno. Esca lo sposo dalla sua camera e la sposa dal suo talamo. Tra il vestibolo e l'altare piangano i sacerdoti, ministri del Signore. Essi dicano: pietà, Signore, del tuo popolo. Non esporre la tua eredità al vituperio, allo scherno delle nazioni, perché si dovrà dire tra le nazioni: dov'è il loro Dio? Il Signore è geloso della sua terra e perdona al suo popolo. Il Signore parla e dice al suo popolo: ecco, io vi mando frumento, mosto e olio fresco, ne avrete a sazietà, non vi lascerò più oltre oggetto di scherno tra i popoli. Colui che dimora nel nord lo allontano da voi, lo ricaccio in un territorio arido e desolato, la sua avanguardia verso oriente, la sua retroguardia verso occidente. Il suo fetore si alzerà, il suo lezzo si leverà. Egli fa cose grandi. Non temere più, suolo, rallegrati e gioisci. Il Signore opera grandi cose. Non temete più, bestie campestri, i pascoli del deserto sono rinverditi, le piante producono i loro frutti, il fico e la vite danno il loro prodotto. Figli di Sion, rallegratevi, gioite nel Signore vostro Dio, Egli vi dà la pioggia secondo il bisogno, fa scendere su voi la pioggia in autunno e in primavera, come prima. Le aie si riempiono di frumento, gli strettoi rigurgitano di mosto e di olio. Io vi risarcirò degli anni che han divorato la locusta e il bruco, la cavalletta e il verme, mio esercito sterminato, che ho inviato contro di voi. Voi mangerete molto, a sazietà, e loderete il nome del Signore vostro Dio, che ha fatto per voi meraviglie. Il mio popolo non sarà più schernito, e voi saprete che io sono in mezzo ad Israele, che io, il Signore, sono il vostro Dio, e non ce ne sono altri. Il mio popolo non sarà più schernito.